in primo piano. Ben ritrovati ancora una volta, Lionello Mancini. Oggi naturalmente tanta Libia in primo piano. Quali sono i commenti da segnalare? Ma i commenti sono alcuni proiettati sul futuro e sono forse i più interessanti, altri sono invece un tentativo di lettura di cosa è accaduto, perché in realtà continuano ancora a esserci tante ipotesi su chi abbia aiutato i ribelli, su chi abbia iniziato questa avventura, a chi servisse di più. E anche quali saranno i risultati di questa situazione, ancora comunque molto confusa, perché non si capisce bene chi alla fine prenderà in mano la Libia, e per noi invece è una questione abbastanza importante. Per fortuna abbiamo un ministro degli esteri, non so, tu se hai letto qualcosa. Abbiamo un ministro degli esteri, Bene, perché effettivamente non si è... Ma non voleva disturbare in passato il governo italiano. Sì, non voleva creare tensioni con quello libico, non voleva disturbare Gheddafi in un momento complicato. Però ecco, in questo momento diciamo anche l'Italia, ho trovato delle dichiarazioni di La Russa che spiega un po', il ministro della difesa, che spiega un po', almeno accenna a che cosa avrebbe fatto l'Italia, quindi sui voli, su... anche come intelligence, quindi è probabile che un ruolo noi lo si abbia avuto. Certo, in questo momento ci sono altri paesi che sembrano molto più, diciamo, importanti, pesanti e presenti di noi. E oltre alla pagina libica? Beh, oltre alla pagina libica ovviamente c'è tutta la parte della manovra. Ci sono degli approfondimenti e c'è anche una proposta molto interessante che pubblica il Sole 24 Ore di due economisti, Romano Prodi e Quadrio Curzio, che poi cercherò in qualche modo di sintetizzare e di spiegare. C'è questo braccio di ferro con la Lega, anche qui una novità clamorosa, perché per la prima volta il Premier ha contraddetto Bossi sulla esistenza e sull'arrivo della Padania, perché infatti oggi leggerò anche qualche titolo della Padania, perché fratelli, la Padania è in arrivo. Questo è stato il comizio di ieri sera di Bossi. Grazie, ti seguiremo, a più tardi Lionello. Eccoci qua dunque, come dicevo proprio poc'anzi con Irene, i grandi temi delle prime pagine dei giornali sono questi due: assalto al bunker di Gheddafi, Libia, transizione di sangue, la battaglia di Tripoli. Ecco, questi sono i titoli dei giornali che cercano di fotografare una situazione in completo movimento. È proprio una specie di magma che nei prossimi giorni si sedimenterà. Gli interrogativi principali sono: che fine abbia fatto Gheddafi, che fine abbiano fatto alcuni dei suoi figli, specie quelli più impegnati nella repressione o nel governo del paese. E quindi i giornali presentano una lunga sequenza di pagine su questo tema. L'altro grandissimo tema è per l'appunto la manovra, che ci interessa a tutti e che oggi sbarca almeno formalmente al Senato, nel senso che la commissione del parlamentare del Senato comincerà a discuterla, ma i temi della manovra sono ancora tutti aperti e da stabilire. Ieri c'è stato la riunione del direttivo della Lega, e quindi con degli effetti, con degli annunci, per la verità niente di molto importante, però è il versante politico tra Lega e PDL, quindi del centrodestra, che ancora è in piena confusione, una specie di Libia nostrana, per fortuna non sanguinosa. Io però vorrei cominciare la lettura dei giornali dal Sole 24 Ore, perché intanto perché ci sono numerosi approfondimenti legati alla manovra, ci sono il dizionario della crisi, ci sono il dizionario sulla manovra, c'è il manuale anticrisi, insomma una serie di pagine molto facili e molto didascariche che ci fanno il punto della situazione, una situazione che, come dicevo poc'anzi, è in piena evoluzione. Quindi io da Sole vi presenterò due o tre flash, chiaramente non posso leggere delle pagine intere, vi invito però a leggerlo, ad acquistarlo, perché oggi il giornale contiene anche una proposta che guarda molto al futuro, molto strategica, di due economisti, Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio, che fanno una proposta che riguarda tutti i paesi. Voi ricorderete, nei mesi scorsi, da metà agosto o poco prima, si discute della nostra manovra, ma poco prima c'era stato il problema della Grecia, in due puntate, in due momenti di crisi acuta in cui l'Europa non si sapeva come si stesse muovendo. C'è stato poi l'acquisto da parte dell'Europa di titoli italiani per dare una mano al nostro paese, non solo al nostro, contro la speculazione. Bene, allora oggi Prodi e Quadrio Curzio sul Sole 24 Ore fanno questa proposta: un Euro Union Bond, ecco ciò che va fatto. Quindi una proposta molto articolata. È una pagina, e la trovate a pagina 5, un po' complicata, nel senso che per quanto sia didascalica e spieghi molto bene anche la terminologia usata, è una cosa complessa, perché il problema è complesso, quindi la soluzione non può essere una cosa di quattro righe e soprattutto non dovrebbe, non vorrebbe essere, questo è il senso di questo articolo pubblicato comunque su un quotidiano, per quanto un quotidiano specializzato. Cioè è il momento in cui anche le persone che in genere non si occupano di questi temi ci mettano, come si dice, un po' di testa, un po' di pensiero, si sforzino di capire cosa sta succedendo, perché l'alternativa ovviamente è delegare a qualcun altro la soluzione dei problemi. Quindi questo articolo di Prodi e Quadrio Curzio nasce sotto forma di lettera. Caro direttore, abbiamo molto apprezzato l'attenzione del Sole 24 Ore al tema degli Eurobond. Di recente, gli Eurobond sono dei titoli, diciamo, emessi dalla Comunità Europea per intervenire, per come dire, vendere un po' di debito, per spalmare un po' il debito dei paesi europei. Quindi di recente bocciati gli Eurobond dal vertice Merkel-Sarkozy del 16 agosto. E allora dicono Prodi e Quadrio Curzio: noi abbiamo una proposta per una nuova emissione di bond, fino adesso non si sono mai visti sul mercato, si chiamerebbero Euro Union Bond, sono diversi da quelli fino adesso che sono circolati e potrebbero essere emessi dal Fondo Finanziario Europeo, un'altra nuova creatura, e garantiti con le riserve auree delle banche appunto centrali. Quindi allora la sintesi di questo articolo è la seguente: Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio propongono il varo dell'FFE, il Fondo Finanziario Europeo, che emetta EUB, gli Euro Union Bond. Il Fondo Finanziario Europeo dovrebbe avere un capitale conferito dagli Stati membri UEM dell'Unione Monetaria Europea, quindi quelli con l'euro, proporzionale alle loro quote nel capitale della BCE, cioè della Banca Centrale Europea. Il capitale dovrebbe essere costituito dalle riserve auree dei vari paesi, da obbligazioni e azioni di società pubbliche stimate a valori reali. Con 1.000 miliardi di euro di capitale, il Fondo Finanziario Europeo potrebbe fare un'emissione da 3.000 miliardi con una leva di 3 e durata decennale. Ora, ripeto, è una questione, se vogliamo, molto tecnica, ma in sostanza significa che l'Europa creerebbe un fondo però strategico, non un fondo di emergenza di quelli che vengono messi insieme all'ultimo momento quando la Grecia sta per crollare o il Portogallo è al centro di voci di speculazione, eccetera, ma un fondo che parta come un elemento di stabilizzazione per le possibili crisi future. I fondi ci sono, le riserve auree dei vari paesi ci sono, alcuni paesi più forti di altri possono garantire questo fondo anche in altri modi. Ebbene, dice, i vantaggi di questa emissione sarebbero enormi, ne citiamo solo due, scrivono Quadrio Curzio e Prodi. Il primo è che il Fondo Finanziario Europeo non sarebbe opportunistico, ma stabilizzante, quindi non fatto sulla base di un'emergenza, ma come un progetto, nella gestione dei titoli di Stato nazionali da detenere su lunghe durate, rendendo così molto difficile anche la speculazione. Il secondo vantaggio sarebbe un mercato degli EUB, Euro Union Bond, di grandi dimensioni e una raccolta a interessi in media più bassi rispetto ai titoli nazionali di quasi tutti i paesi dell'Unione Monetaria. Data anche la sua natura, data anche la natura del fondo finanziario e degli Euro Union Bond, che hanno garanzie reali, quindi basate appunto sull'oro vero che è nei forzieri delle banche, diventerebbe realistico attrarre investitori molto liquidi come i fondi sovrani, che si stima abbiano oggi assets intorno ai 4.200 miliardi di dollari, ovvero circa 3.000 miliardi di euro, che nessuna emissione di titoli di Stato della UEM può servire se non in piccola parte. Allora, ripeto, è una proposta strategica di lungo respiro, sono sicuro che farà discutere e susciterà un grande interesse. Prima che, ecco, tra un minuto devo dare ovviamente la linea alla regia, vi annuncio che sempre sul Sole 24 Ore c'è una analisi politica, secondo me la migliore dei vari giornali usciti oggi, di Stefano Folli, che riprende, ricordate i temi di ieri e i giornali di ieri, il forte discorso di Napolitano, che Napolitano ha fatto al meeting dell'amicizia di Rimini, e anche un articolo del vice direttore Fabrizio Forché che se la prende sulla falsa equità della politica debole, ovvero ieri la Lega ha dato il suo stop sostanzialmente definitivo alla riforma del sistema pensionistico, e allora il titolo del Sole è: altolà sulle pensioni, scambio sulla super IRPEF, spunta la sostituzione della tassa di solidarietà con l'aumento dell'IVA, si cercano i fondi per i comuni. Ecco, su questo tema Fabrizio Forché interviene con la falsa equità della politica debole, che vi leggerò subito dopo l'interruzione. In primo piano. Libia e petrolio sostengono le borse, questo comunque è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, dove si parla anche del rimbalzo di ieri di Piazza Affari, quasi più 2%, più 1,78%, dopo il venerdì nero in cui per la verità aveva perso molto di più. Wall Street invariata, cosa ha fatto salire le borse ieri? Appunto Libia e petrolio, ovvero la speranza che il mercato libico del petrolio si riapra dopo le turbulenze di queste ultime settimane e mesi. Torniamo quindi comunque alla politica italiana, dicevo Stefano Folli. Molto brevemente vi leggo alcuni passi di questo editoriale che secondo me, in una sintesi mirabile come sempre quella di Folli, riassume paginate di giornali che troviamo su altri quotidiani. Non stupisce che Berlusconi si sia mostrato abbastanza soddisfatto del discorso di Napolitano a Rimini. Data la situazione della maggioranza e la sua personale, non ha altra scelta se non fare buon viso a cattivo gioco. In realtà, come è stato scritto, l'intervento del Presidente della Repubblica al meeting di CL è stato duro, persino spietato nei toni e nei contenuti. Certo, questa asprezza il capo dello Stato, parlando da super garante degli equilibri politici presenti e futuri, l'ha riservata all'intero arco parlamentare, al centrodestra che governa non meno che centrosinistra che si oppone. E il suo è apparso un tentativo estremo di indurre il sistema a una maggiore responsabilità per ritrovare un po' della credibilità perduta. Però il Presidente del Consiglio, scrive Stefano Folli sul Sole 24 Ore, è contento di questa rampogna e si può capirlo. Oggi il Quirinale è un punto di riferimento che Berlusconi non può permettersi di smarrire, al pari della Banca d'Italia. Sono passati i tempi in cui Palazzo Chigi poteva permettersi qualche tensione con la Presidenza e in cui i giornali scrivevano di conflitti istituzionali dietro l'angolo. Ora il baricentro della politica ha cessato di essere nella maggioranza confusa e affannata che ha vinto le elezioni del 2008 ed è passato nelle mani di Napolitano. L'articolo poi continua, però questo è il centro dell'analisi di Stefano Folli. Mentre invece, come vi dicevo, Fabrizio Forché, passando ad analizzare la nuova presa di posizione della Lega, che poi vedremo anche sulla Padania, sotto il titolo La falsa equità della politica debole, dice: l'umiliante dibattito di questi giorni sull'età pensionabile è figlio della politica debole di oggi. Perché, dice Forché, di cui ora ritroviamo il seguito, perché dice è figlio della politica debole? Perché, ecco, E il governo dice, ripete con la Lega, che il sistema è in equilibrio. In realtà finge di ignorare che, e ci sono questi quattro brevi punti. Primo, chi oggi va in pensione può farlo prima dei 60 anni e riscuote un assegno quasi pari al 70-80% dell'ultimo stipendio, mentre i ventenni o i trentenni di oggi potranno andare in pensione solo ben oltre i 65 anni e con circa la metà dell'ultimo stipendio. Molto meno se si è autonomi e sempre se il PIL cresce mediamente più dell'1,5% reale all'anno, e questa è un'evidente ingiustizia generazionale. Secondo, per permettere al sistema di ritenersi in equilibrio contabile, i contributi previdenziali che alleggeriscono le buste paga sono particolarmente alti. Questo è un onere che penalizza i lavoratori e le imprese e pesa anche sui livelli occupazionali, il famoso cuneo fiscale. Terzo, il sistema previdenziale italiano costa 2 punti di PIL più della media europea. Secondo l'ultimo confronto elaborato dall'OCSE, l'Italia impegna circa il 14% del PIL in pensioni, livello record tra i paesi sviluppati, contro il 12% della Francia e l'11% della Germania. 4. Infine, il sistema contributivo che sta per entrare a regime non prevede alcun riequilibrio in senso sociale. Questo vuol dire che chi guadagna bene ha la possibilità di costruirsi una buona pensione integrativa, chi guadagna poco e magari con contratti a termine avrà una pensione da fame. Ecco perché la politica che rivendica l'equilibrio del sistema pensionistico, scrive Forché, prende in giro gli italiani. Ci sono almeno queste 4 buone ragioni per alzare, fatti salvi i lavoratori addetti a mansioni usuranti, l'età pensionabile e, la conclusione di Forché sul Sole 24 Ore, portarle per tutti la pensione a 70 anni. Ecco, con questo lasciamo il Sole 24 Ore, vi ricordo ancora gli approfondimenti che trovate solo sul Sole relativamente alla manovra e alla situazione libica, specie sul versante economico, e passiamo prima assolutamente in maniera velocissima, ma ai giornali che fanno più riferimento, diciamo, all'area di centrodestra, perché ieri il Carroccio, dopo la sua direzione, dopo la sua riunione di dirigenza, cosa fa? Detta le condizioni. Questo almeno scrive La Padania, La Voce del Nord, che ho scoperto oggi, non la guardo spesso, devo dire, che il direttore è Umberto Bossi, anche del giornale. La Lega detta le condizioni. Pensioni, enti locali, evasione fiscale, la segreteria politica ribadisce la linea della fermezza di Umberto Bossi. La previdenza non si tocca, si toccheranno invece i tagli al territorio, ovvero la Lega vuole che vengano alleggeriti i tagli ai comuni e ai piccoli comuni in particolare. All'interno, o meglio, al centro della prima pagina della Padania, in una grande foto che ritrae Cota, il governatore della Piemonte, con Bossi che sta parlando, il titolo è Bossi, fratelli, la Padania sta arrivando. Quindi, oltre alle condizioni che detta la Lega, che sono... le pensioni non si toccano, assoluta necessità di un ridimensionamento dell'intervento sulle autonomie locali, quindi questa cosa di alleggerire la manovra sui comuni, e una proposta incisiva ed equa per sconfiggere la grande evasione fiscale e conseguentemente reperire risorse per lo sviluppo del paese. La pagina 6 e 7 della Padania è di nuovo Bossi su 2 pagine, fratelli state su di giri, la Padania ora sta arrivando. Per poter crescere il Nord ha bisogno di autonomia. Dopo aver fatto tappa alla Bergen Fest, Bergen è Bergamo, detto in padano, alla Bergen Fest di Alzano Lombardo, il ministro delle riforme conclude la sua settimana di comizi in Piemonte. Da Capriata d'Orba, che non so dove sia, credo sia forse in provincia di Alessandria, da Capriata d'Orba rilancia, il sistema è in una crisi irreversibile, dobbiamo prepararci perché la svolta è vicina. E quindi queste 2 pagine con foto di crociati, comizi, folle plaudenti, è dedicata al fatto che la Padania ora sta arrivando, e a questa frase ha risposto per la prima volta Berlusconi. Berlusconi, leggo sulla Stampa, gela il Senatur, manovra... Spunta l'ipotesi aumento dell'IVA sui beni di lusso, perché dice Gele Senatur, Bossi sbaglia, l'Italia non si tocca, e pare che ieri Berlusconi abbia telefonato al Presidente della Repubblica. Su un giornale, mi pare proprio sulla Stampa, sapete, la Stampa come giornale di Torino è molto attenta a queste tematiche. Della Padania, della secessione, del federalismo, eccetera, perché insomma il Piemonte, il Veneto sono le roccaforti, insomma, della Lega. Bene, a pagina 10 la Stampa in un articolo di Giovanni Cerutti, fa invece le bucce alla Lega in un articolo intitolato La Muina Padana e le liturgie da Prima Repubblica. In pratica va a vedere quali sono state le promesse barra minacce della Lega alla propria maggioranza, insomma le alzate di tono, il dito medio della mano alzata, eccetera. E allora l'elenco è questo. 1. Il trasferimento dei ministeri al nord, scrive Cerruti. Si tratta soltanto di 3 uffici semivuoti che al momento sono ancora chiusi. 2. Il capogruppo dei deputati leghisti, Bossi, aveva detto: entro luglio sostituiremo Reguzzoni, ma il maroniano Stucchi è ancora in attesa. 3. I nuovi ticket per i servizi sanitari. Il senatore annunciò che li avrebbe sostituiti con un aumento del costo del tabacco, ma invece non è successo. 4. Una patrimoniale sui beni di lusso. La proposta di Calderoli fatta nei giorni scorsi per il momento è stata accantonata. Soprattutto ricorderete che all'ultimo appuntamento di Pontida, il 19 giugno, la Lega, in un discorso che voleva essere infuocato di Bossi, aveva proposto un manifesto, il manifesto di Pontida, e le scadenze inderogabili, ovvero una serie di impegni che la Lega si prendeva erano preceduti da delle date, e diceva: entro 2 settimane faremo questo, entro 30 giorni faremo questo, entro 60 giorni faremo quest'altra cosa, entro l'estate 2011, eccetera. Bene, a questo punto sul sito della Lega, se andate a vedere, c'è questo manifesto di impegni, ma sempre sotto il titolo Fatti in tempi certi, sono sparite le date, non ci sono più le scadenze, quindi non c'è più entro 2 settimane, entro 60 giorni, eccetera, ma c'è solamente l'elenco degli impegni che la Lega ha preso con il proprio elettorato, con i propri seguaci e fedeli. Quindi abbiamo visto anche la Padania. Il giornale di Sallusti apre sulla Libia e dice: chi obbligò Berlusconi ad attaccare Gheddafi? Il conflitto in Libia, l'epilogo. Le maniere di grandezza di Sarkozy, che voleva mettere le mani sul petrolio, l'interventismo di Napolitano che ha contagiato la sinistra. Così l'Italia è entrata in guerra. Questa è l'apertura del giornale. Libero invece dà dei consigli anti-stangata. Ecco 10 miliardi e senza supertassa. E scrive: Bossi fa le bizze sulle pensioni, in cambio anticipi i costi standard della sanità. E Franco Becchi scrive: ma c'è pure una manovra occulta. Si riferisce in particolare al patto di stabilità interno, che è quello tra governo e comuni, che punta a 7 miliardi e mezzo di risparmi, cioè quindi di tagli. E poi la seconda manovra occulta è il fatto che si venga tolto il blocco dell'addizionale IRPEF per regioni e comuni, che nell'attesa del federalismo fiscale e nell'introduzione dell'IMU potranno raggiungere già nel 2012 i tetti dell'1,4% per le regioni e dello 0,8% per i comuni, con eccezione di Roma che è già allo 0,9%. Questo significano delle tasse locali che si aggiungeranno a quelle centrali. Bene, passiamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera, assalto al bunker di Gheddafi, una prima pagina quasi interamente dedicata a questo. A Tripoli gli ultimi cecchini del regime sparano anche sui bambini, riferisce anche il Corriere di un rischio grosso che si è preso l'inviato a Tripoli del Corriere, Lorenzo Cremonesi. Il racconto dell'inviato del Corriere: quelle raffiche sulla mia auto. In pratica la sparatoria, scrive Cremonesi, nel quartier generale degli insorti a Tripoli, attaccato dai miliziani, gli ultimi fedeli di Gheddafi. Una potente raffica contro l'auto dell'inviato del Corriere fa esplodere le riserve di benzina. Ore di paura. Ci fermiamo un attimo per dare le notizie sulla viabilità. In primo piano. Eccoci dunque al Corriere della Sera. Come dicevo, assalto al bunker di Gheddafi è l'articolo di prima pagina, l'editoriale di Antonio Ferrari, spettatori no, non ve lo leggo, ma si intuisce a cosa si riferisca. E come dicevo poc'anzi con Irene Zerbini, c'è pagina 13 del Corriere, c'è questo titolo: istruttori e intelligence, il ruolo segreto dell'Italia. con oltre 900 missioni aeree, e la russa che dice: siamo stati decisivi. E ci sono poi delle interviste, quindi c'è una serie, diciamo, di elementi, di spunti non troppo precisi. D'altra parte siamo in un campo veramente delicato e quindi è difficile dare dei dettagli, come dire, proprio millimetrici. E comunque ci sono, ecco, c'è questa pagina dedicata ai rapporti tra l'Italia e la Libia, in cui l'articolo centrale è questo, dedicato al ruolo che ha avuto nella guerra che si è svolta in questi mesi in Libia. Però ci sono anche una serie di testimonianze dall'ex campione calcistico Gentile, che dice: sono felice per il paese, sono pronto a fare il loro commissario tecnico, a Valentino Parlato, che è nato e vissuto per 20 anni in Libia, e dice: la mia Tripoli in pace anche con gli ebrei, coglie questo aspetto particolare. Ecco, ci sono poi delle altre pagine del Corriere della Sera dedicate alla ricostruzione storica dei nostri rapporti con la Libia e al ruolo economico dell'Italia e in capofila delle nostre aziende nella corsa agli investimenti. Ovviamente c'è anche una parte del giornale dedicata alle questioni nostre interne, e troviamo appunto a pagina 16-17: la Lega non cede, le pensioni non si toccano, la richiesta di ridimensionare i tagli agli enti locali. E d'altra parte, Padania, Berlusconi frena Bossi, la nota: il mio amico sbaglia, e la telefonata con Napolitano. La mossa dell'UDC, ovvero Casini: molli il senatore e avrai i voti, e il Partito Democratico presenta le sue controproposte. I centristi: decreto iniquo e vessatorio, basta con i ricatti, ce l'hanno con il contributo di solidarietà. Di Pietro: sì al Colle, si riferisce al discorso dell'altro ieri di Napolitano. Il premier: lasci il paese come Gheddafi. Vabbè, questo è Di Pietro. Così avanti, diciamo, nell'analisi della, in particolare della manovra, fino ad arrivare alla pagina degli spettacoli, dove viene data dal Corriere della Sera una notizia che hanno comunque tutti i giornali: i medici fermano Vasco, riposo forzato, salta il tour. Questo stop non ci voleva, purtroppo sono umano. Questa è, diciamo, l'autovalutazione di Vasco Rossi, certamente che è umano. Il fatto di accorgersene perché è malato è abbastanza bizzarro. Comunque la clinica di Villalba a Bologna, la clinica da cui, diciamo così, si serve Vasco Rossi, dice: deve star fermo almeno 60 giorni, escluse patologie tumorali. Altra piccola notizia, comunque, che anche Iannacci, il cantante ormai 76enne, si è ammalato di polmonite ed è stato però dimesso dopo la terapia intensiva in un ospedale ligure. Dalla Repubblica invece vorrei segnalarvi, ovviamente non mi soffermo sugli stessi titoli, l'ultima battaglia di Tripoli, i ribelli prendono la TV, arrestata la conduttrice che si è presentata con la pistola in televisione, forse ricorderete l'altra sera, ma vi voglio segnalare anche qui delle parti un po' più leggere, non prima però di avervi, perché vedo che nella pagina che stavo per leggere, la pagina 45 della Repubblica, la pagina 44 è una pubblicità, La verità contro le bugie del potere, è la pubblicità che annuncia il libro diciamo di Giuseppe D'Avanzo, ovvero il collega morto di infarto a 58 anni il 30 luglio. Il giornale ha raccolto tutti i suoi scritti con delle prefazioni: inchiesta sul potere, le indagini di un maestro del giornalismo. Domani con la Repubblica, al prezzo, se non ricordo male, di 10 euro, il libro che raccoglie le inchieste più importanti di Giuseppe D'Avanzo, dalla mafia al Nigergate, da Telecom Serbia alle 10 domande a Berlusconi. Giuseppe D'Avanzo, la verità prima di tutto, quindi sì, chi lo vuole comprare. A pagina 45 però, dicevo, C'è un articolo molto interessante di uno scrittore inglese, Howard Jacobson, che spiega perché i ragazzi delle rivolte non sono solo dei semplici criminali. Vi ricordate nei giorni scorsi quelle notti di follia a Londra, e non solo a Londra, scontri con la polizia, morti, incendi, eccetera. E allora l'articolo di Jacobson invita alla riflessione e dice: noi i padri della peggio gioventù. Jacobson dice: basta dare una scorsa ai commenti in rete che seguono anche il più ragionevole ed equilibrato degli articoli sull'argomento. Non ci limitiamo, noi inglesi, noi adulti, a esprimere il nostro disaccordo, ma ingiuriamo e dissacriamo. Se potessimo uccidere con le parole, lo faremmo. Persino su Newsnight, che in genere incoraggia un dibattito più moderato, la settimana scorsa nessuno ascoltava nessuno. E quindi segnala anche che la società oggi ha paura di punire perché ha smesso di giudicare e non capisce l'offesa di essere offesi. Ecco, credo che sia, a distanza di qualche giorno da quelle vicende e da quegli scontri veramente molto gravi che sono accaduti a Londra, un momento di riflessione, credo che sia una cosa interessante, anche perché i meccanismi che descrive questo scrittore inglese Jacobson relativi all'Inghilterra per molti versi sono comunque delle dinamiche tra generazioni e nel modo in cui le società accolgono o respingono i giovani, e perciò direi che sono dei temi che fanno riflettere anche tutti noi. Sempre dalla Repubblica, e sempre per restare un po' più leggeri rispetto alla situazione della Libia o alla strizzata che ci aspetta tutti sul piano della manovra, vediamo a pagina 26 una beffa a Briatore: non pagano un conto da 86.000 euro. Sulla Costa Smeralda, al Billionaire, una comitiva di giovani russi beve 92 bottiglie di champagne. I turisti erano sbarcati da uno yacht di 70 metri, ma poi si sono rifiutati di saldare. Vai a capire perché, però insomma, diciamo, probabilmente Briatore arriva comunque alla fine del mese. E a Firenze invece, sempre dalla Repubblica, sempre nell'attualità, tessera VIP per il Duomo: con 7 euro si può saltare la fila. La card permette di entrare direttamente nella chiesa simbolo della città e in altri monumenti. Sarà giusto, non sarà giusto? Sembra un po' l'imbarco prioritario di EasyJet, però insomma probabilmente è un modo di fare cassa. Ancora, sempre per restare proprio sulle cose leggere: tutti pazzi per amore, la guerra dei Lucchetti riparte da Venezia. Cosa succede? Che dopo il ponte di Roma invaso dai Lucchetti degli innamorati, anche il ponte di Rialto i ragazzi attaccano i Lucchetti come pegno d'amore di loro. E c'è anche un articolo di Francesco Merlo che dice: un vizio nazionale che deturpa le città d'arte. Ecco, con queste notizie un po' più leggere io vi saluto, vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Irene Zerbini.